Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Eccoci di nuovo insieme, apriamo il nostro consueto spazio quotidiano. Monitoriamo le mosse del coronavirus. Obiettivo: rispondere alle vostre domande, dubbi, per raccogliere le informazioni utili per affrontare questa situazione di emergenza senza farci prendere dall'allarmismo, dal panico, da dei comportamenti che non sono assolutamente giustificati. In linea con noi gli esperti della SIMIT. Saluto subito il professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della SIMIT. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Professore, partiamo da una buona notizia. Ma una buona notizia è che i dati che arrivano dall'Italia, ma anche da un po' tutto il mondo, ci iniziano a far vedere che 2/3 delle persone che si infettano non si ammalano. Quindi solo una persona su 3, una volta che prende il virus, svilupperà una malattia. E questo direi che è un ottimo messaggio. Un altro buon messaggio, un messaggio positivo, magari un dato letto nel modo giusto, ce lo facciamo dare dalla professoressa Antonella Castagna, infettivologa al San Raffaele e docente, docente all'Università del San Raffaele, che stiamo aspettando, ma abbiamo in linea con noi il professor Elio Castagnola, direttore dell'unità operativa di malattie con malattie infettive al Gaslini. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, io vorrei commentare con lei il dato. 4 bambini infettati. Sino ad ora abbiamo sentito, abbiamo pensato, ci siamo augurati che i bambini fossero in qualche modo protetti da questo virus e quindi non sviluppassero la malattia. Adesso questi 4 dati che cosa ci dicono? Ci aiuti a leggerli nel modo corretto? Io credo che quello che dobbiamo dire è che i dati scientifici ci dicono che i bambini sono infettati ma si ammalano molto raramente, cioè gli viene la febbre, la tosse da coronavirus molto raramente, e che soprattutto le forme gravi, quelle che richiedono la terapia intensiva, sono, potrei dire, eccezionali. Quindi da un punto di vista generale noi possiamo pensare che la popolazione pediatrica sia in qualche modo protetta, o forse meglio meno aggredita da questo virus. Quindi professore, messaggi ai genitori, tranquillità. Assoluta, tranquillamente, è un'influenza, passatemi il termine un po' generico, un po' più diffusiva delle altre, perché non c'è nessuno al mondo finora che l'avesse mai presa, quindi da poter creare un po' di immunità. Bisogna non andare al pronto soccorso, ma contattare il 112 delle singole regioni, 112-118 secondo le situazioni, telefonare. Chi deve farlo? Soprattutto le persone che vivono nelle aree a rischio. Certo. Un soggetto pediatrico in un'area non a rischio, che non ha avuto contatti con casi, è al momento attuale delle conoscenze dell'epidemiologia è estremamente improbabile. Ecco, mi piace sottolinearle perché vogliamo mandare anche dei messaggi chiari e rassicuranti. Adesso andiamo a sentire le domande dei nostri ascoltatori. Andiamo. Buongiorno a tutti, volevo sapere, nel caso specifico nessuno parla di come vengono trattati una volta scoperte queste persone che diciamo risultano positive, cioè sappiamo solo che arrivano all'ospedale ma nessuno dice come vengono trattati. Questa è una domanda diciamo generica. L'altra invece, la tosse che uno deve diciamo avere, è una tosse che può essere la tosse saltuaria, cioè il colpo di tosse, o deve essere una tosse diciamo così accentuata, che si capisca che ci sia qualcosa che non quadra? Perché, cioè, che ne so, questa mattina ero a fianco a una persona diciamo in un locale dove stavo comprando delle cicche e questo ha tossito, ma cioè, capire un attimino anche questa tipologia di situazione. Grazie mille, buona giornata, Marco. Allora, professor Andreoni, rispondiamo a Marco e rispondendo a Marco a tanti ascoltatori che ci chiedono come deve essere questa tosse, come vengono trattate le persone che sono positive e hanno sviluppato la malattia. Professore. Allora, innanzitutto non abbiamo farmaci sicuramente altamente efficaci per questo virus. Abbiamo alcuni vecchi farmaci, cioè farmaci che sono stati utilizzati nei confronti di altri virus, Ebola, virus influenzale, virus dell'AIDS o addirittura la clorochina, che è un farmaco utilizzato per la malaria, che hanno dimostrato un certo grado di attività. Quindi i pazienti più gravi vengono trattati con questi farmaci per trarre il beneficio che questi farmaci possono dare. Relativamente alla tosse, diciamo, la tosse della polmonite da coronavirus è un po' la tosse delle infezioni virali, cioè una tosse stizzosa, una tosse frequente ma stizzosa. Il catarro all'inizio non c'è, la persona tossisce molto e poi solo in una fase successiva diventa una tosse grassa, cioè una tosse con molto catarro. Grazie professor Andreoni, ma un'altra domanda vi aspetta. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto, chiamo dalla provincia di Verona. E niente, io volevo sapere una cosa, è già stato fatto uno studio sui le persone infette da coronavirus per capire se c'è una tendenza ad un gruppo sanguigno di essere infettato rispetto agli altri? E questa era la mia domanda, appunto, vi ringrazio, buona giornata. Professor Andreoni, abbiamo una risposta anche per questo nostro ascoltatore relazione anche con i gruppi sanguigni? No, parziali, cioè non c'è stato ancora nessuno studio scientifico con dati, diciamo, validi che dimostri una correlazione tra gruppo sanguigno e infezione o grado di malattia. Iniziamo ad avere invece dei dati interessanti relativamente a quella che è la risposta immunitaria dell'ospite, cioè come la nostra immunità risponde a questa infezione, e anche qualche dato su come la genetica del singolo organismo risponde nei confronti dell'infezione e anche dell'evoluzione della malattia. Però su gruppi sanguigni non abbiamo nessun dato ancora consolidato. Professor Andreoni, io so che lei deve scappare, quindi la saluto. Mi tengo stretto il professor Castagnola per rispondere ancora alle domande dei nostri ascoltatori. Professor Andreoni, grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Buona giornata. Buongiorno, anche a lei, buongiorno. Professor Castagnola, messaggio che del nostro ascoltatore, noi diamo voce a chi sta chiamando il nostro numero, arrivano davvero tantissimi messaggi. Si dice che il virus attacchi di più i vecchi, ma il primo contagiato è giovane e sportivo. Tra l'altro, scrive l'ascoltatore, mi piacerebbe anche sapere come sta. Per quanto riguarda le mascherine, se tutti le indossassero ci sarebbe meno rischio. Come fa uno a sapere chi è infetto e chi no? Professor Castagnola. Il professor Castagnola ha avuto una piccola... Abbiamo perso il nostro esperto, sì, ma... Professoressa Castagna, sembra un gioco. Dal professor Castagnola alla professoressa Castagna, c'è anche sì. No, questa cosa. Sì, dai, allentiamo un po'. Vede? Ecco, le castagne aiutano. Le castagne sì. Aiutano. Professoressa, sì. Rispondiamo ad Aldo che sì. Ci dice: beh, però, in effetti, il malato, il primo malato, il paziente numero uno, il paziente zero, non abbiamo ancora notizie. Era un giovane sportivo, molto attivo. E allora? Allora, direi che i dati in questo senso sono molto solidi, fra l'altro lo stiamo verificando noi anche nel focolaio epidemico italiano, le persone più gravi, quelle che rischiano, che hanno un rischio di mortalità più elevato, sono le persone che hanno le caratteristiche delle persone che ci sono state segnalate dalla Cina, quindi maschi, anziani con precedenti comorbidità, tant'è vero che i 10-11 decessi che abbiamo avuto correlati al coronavirus hanno queste caratteristiche. Poi è chiaro che ogni regola ha le sue eccezioni, certo. Bisogna capire in qualche modo come questa persona è arrivata, se magari è arrivata, perché un altro elemento importante che va, secondo me, detto, sì. È che non dobbiamo fare allarmismo. Ecco. stiamo andando a testare, andremo sempre più a testare le persone che hanno sintomi, ma una cosa importante che va detta è che la diagnosi precoce aiuta. La diagnosi precoce aiuta, questo è importante, come è importante ricordare il nostro numero a cui potete mandare i vostri messaggi, i messaggi vocali, 335 100 6297. Vi aspettiamo, questo spazio è per voi e soprattutto è vostro, diamo voce ai vostri dubbi, alle vostre risposte, le vostre domande, gli esperti della SIMIT rispondono. Grazie.